Tanti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Le classi dirigenti, la grande industria, la finanza e il potere. Un legame molto stretto che attraversa da sempre le diverse stagioni politiche, seppur con diverse intensità e con diverse modalità a secondo che si tratti di sistemi democratici o di dittature. Non ne fu certo immune il Terzo Reich, che avviò fin dall'insediamento al potere di Adolf Hitler una fitta rete di rapporti con esponenti dell'alta finanza tedesca, dell'industria, sotto la supervisione del potente feldmaresciallo e il numero due del Reich, Hermann Göring. Mirella Serri, nel suo libro appena pubblicato da Longanesi dal titolo Gli Invisibili, la storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia, dedica all'argomento alcuni interessanti passaggi. Il ministro degli esteri del Terzo Reich, Joachim von Ribbentrop, grazie alle sue conoscenze e all'influenza della moglie, Anneli Senkel, venne incaricato da Hitler di conquistare alla causa nazista le simpatie delle classi dirigenti. Alle serate organizzate da Annelis nelle ampie sale della Villa Dahlem in Lenzstrasse, i dirigenti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori cenavano e si intrattenevano, oltre che con i principi d'Assia, con il banchiere Kurt von Schröder, finanziatore della campagna politica di Himmler, con Bertha Krupp, erede della grande dinastia dell'acciaio, e con suo marito, il diplomatico Gustav von Böhlen und Halbach, che aveva preso in mano il complesso industriale più grande d'Europa. E ancora, con Franz von Papen, cancelliere della Repubblica di Weimar nel 1932, e con il presidente della Repubblica, Paul von Hindenburg, sostenitore dell'alleanza con il partito nazista e con l'imprenditore Thyssen e sua moglie Amelie. Dal salotto dei Ribbentrop si fece sedurre perfino Himmler, che pur avendo il suo quartier generale berlinese nella Prinz Albrecht Strasse, andò ad abitare nella villa Am Donnerstag, vicino alla casa di Ribbentrop a Dahlem. Il principe Filippo, devoto al suo nume tutelare Göring, era un assiduo frequentatore, oltre che della famosa dimora di Annelis, delle imponenti feste che si tenevano nella magione di Karinhal, l'enorme villa del gerarca tedesco a 60 chilometri da Berlino. Una fitta rete di relazioni dunque per cementare il consenso, ottenere finanziamenti, entrare nel giro della grande finanza e dell'industria, consolidando in tal modo il potere e la sfera di influenza del Terzo Reich, come mostra questa testimonianza di Fritz Thyssen, presidente delle Acciaierie Riunite. Io personalmente ho dato in tutto 1 milione di marche al nazionalsocialismo. Hitler aveva altre fonti di entrate, oltre a me. Fu durante gli ultimi anni precedenti all'ascesa al potere dei nazisti che le grandi società industriali cominciarono a dare i loro contributi. In tutto, le somme date ai nazisti dall'industria pesante possono stimarsi in 2 milioni di marchi all'anno. L'economia del Terzo Reich era del resto strettamente dipendente dalla grande industria, soprattutto metallurgica e chimica, per i propri progetti di riarmo. Gli effetti del nuovo piano avviato nel 1934 furono prima di tutto il rafforzamento del dominio dei grandi monopoli sull'economia, quegli stessi monopoli che avevano appoggiato il nazismo. Si registrò una grande espansione nelle industrie delle costruzioni e nell'industria automobilistica, legate soprattutto ai trasporti, autostrade, ferrovie e ai preparativi militari. Il film La caduta degli dèi di Luchino Visconti del 1969 parla proprio delle infiltrazioni del nazismo ai vertici delle grandi industrie. L'industriale Joachim, avverso al nazismo, spiega che è costretto a inserire un uomo del regime al vertice della sua azienda per evitare problemi. Di fronte agli ultimi drammatici avvenimenti, ritengo che sia più che mai necessario mettere le acciaierie Essenbeck al riparo da eventuali pressioni politiche o da rischi anche più gravi. Dovete darmi atto che io non ho mai dato la mia adesione a questo regime. Ciò nonostante, nell'interesse dell'azienda, la nostra attività produttiva ci costringe a mantenere con quella gente contatti quotidiani. Thank you. Diamo il benvenuto alla professoressa Mirella Serri, che ha ispirato la nostra puntata di oggi con il suo bel libro. Buonasera professoressa. Buonasera, buonasera. Grande rapporti fitti tra classi dirigenti, industria, finanza e il Terzo Reich. Sì, rapporti fittissimi, ma la cosa veramente singolare di questa, appunto, di questo intreccio che voi tra l'altro avete descritto, illuminato con citazioni molto bene, è il fatto che Hitler, ma anche Himmler o Göring, avevano poi due facce, nel senso che Hitler non solo quando tenta l'ascesa al potere, ma anche dopo che è andato al potere, continua sempre a dichiarare, lui si definiva: io sono un soldato tedesco, la mia vita non è stato altro che una lotta continua per il mio popolo e per la Germania. E poi tra l'altro lui, come dire, non veniva dalle classi dirigenti quanto ad origine familiare, però continua appunto poi a dichiarare sottolineare la differenza che c'è fra il popolo e la gente cosiddetta appartenente all'alta società, quindi appunto anche gli industriali, i banchieri, che li definiva appunto una società in decadenza diceva che essi erano non altro che un aborto o frutto di un'educazione degenerata. Questo in pubblico durante i comizi a Norimberga e così via, però poi invece nel privato, come si è visto appunto dalle letture che voi avete fatto, i rapporti erano fittissimi e tra l'altro sono questi gli uomini che fanno la fortuna di Hitler. Basta prendere il nome di Hjalmar Schacht, che inaugura nel 1934, quando diventa ministro dell'economia, una specie di New Deal simile a quello di Franklin Delano Roosevelt, cioè inaugura una rete autostradale, promuove i lavori pubblici e quindi una rete autostradale tedesca, risolve i problemi di disoccupazione, crea dal nulla milioni di posti di lavoro, annulla il debito estero, e qui potremmo continuare. Però curiosamente Schacht e anche Thyssen poi li ritroviamo proprio tra quei prigionieri illustri chiusi nel lager da Hitler stesso, proprio perché a un certo punto i rapporti si capovolgono. Cioè, non che Hitler faccia a meno del sostegno dell'industria con i Krupp, continua ad avere, e anche con l'industria, certo, Thyssen continua, certo, ad avere dei forti legami, ma con alcuni, diciamo, dirigenti industriali, imprenditori, i legami si spezzano. Faccio un esempio per Schacht: subito dopo l'attentato a Hitler del 1944, alle 7 di mattina, lo racconta lui stesso, sentì la sua cuoca che bussava alla sua camera da letto, lui stava appunto ancora in pigiama, e viene portato nel lager, passa attraverso vari lager e poi alla fine verrà liberato con tutti i prigionieri illustri a Villa Bassa nel Tirolo. Perché poi Villa Bassa, lo diciamo ai nostri ascoltatori, è esattamente il luogo da cui comincia il suo racconto, sì, del suo, esatto, libro, Gli Invisibili. Sì, esatto, Fritz Thyssen con sua moglie e Schacht, ma anche molti altri dirigenti, uomini dell'industria, capitesi, ma non sono loro, anche capi di Stato, come ex capi di Stato, come Leon Blum o come l'ex cancelliere austriaco, ma anche personaggi che poi non riescono ad arrivare a Villa Bassa, come Mafalda di Savoia o il figlio di Stalin, fanno parte dei prigionieri illustri, cioè prigionieri che Hitler, ma soprattutto Himmler, volevano tenere come, diciamo così, un tesoretto, un deposito di ostaggi che volevano scambiare con gli alleati. E per esempio Schacht, che tanto per rimanere nell'ambito degli economisti, sì, degli industriali, aveva avuto per esempio all'inizio del secolo, verso il 1905-1906, dei rapporti molto stretti con gli americani. Una strategia politica, e vengono chiamati questi personaggi gli invisibili perché venivano tenuti nei lager, ma in condizioni un po' appartate, e quindi a volte, non sempre, loro stessi non sapevano di essere in un lager, anzi diciamo che come Leon Blum ignoravano cosa fosse un lager, perché lui viene appunto chiuso in un portato in campo di concentramento, ma non vede nessuno degli altri, chiamiamoli così, ospiti del lager. Poi se ne accorgerà successivamente, e quindi lui non vedeva dove si trovava, ma gli altri non conoscevano la sua identità. Questo naturalmente non è poi vero per tutti, perché per esempio se parliamo di Mafalda di Savoia, che invece lei muore nel lager, era come dire, la sua identità era conosciuta fin da prima della sua morte, mentre invece un altro personaggio che fa parte di questa classe dirigente, che è Filippo d'Assia, che era il marito di Mafalda di Savoia e quindi genero del re d'Italia, viene imprigionato da Hitler, e questa è una storia che si racconta appunto negli Invisibili, e lui è un elemento molto forte di collegamento tra i nobili, gli aristocratici tedeschi, la classe dirigente, chiamiamoli così, fascisti italiani, proprio perché aveva sposato Mafalda, Hitler e Himmler. Però poi alla fine anche lui finisce in campo di concentramento per una serie complicata di motivazioni. Ecco, e quindi questa è la storia degli Invisibili, che viene raccontata in questo bel libro, di cui consigliamo senz'altro la lettura ai nostri ascoltatori, Mirella Serri, Gli Invisibili, la storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia, pubblicato da Longanesi. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie a voi.